Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, questo è il vostro libero spazio radiofonico sportivo. Potete intervenire da ora fino alle 19. 800 24 00 24 è il numero verde per dire quello che vi pare. Giorgio De Luca in redazione, Valeria Bernardi in regia. 5 partite sui campi di Serie A, l'Inter non va oltre lo 0-0 e siamo alla mezz'ora. In casa con l'Atalanta ha sbagliato un calcio di rigore dopo 22 minuti, fallo di Bellini, trattenuta piuttosto evidente di Bellini su Pazzini, ma Milito si è fatto parare un tiro piuttosto fiacco da Consigli. Milito che al 18esimo della ripresa ha lasciato il posto a Zárate che fin qui non ha combinato nulla. Siamo al 30esimo esatto a San Siro, c'è una punizione per l'Inter. Da una trentina di metri sarebbe perfetta per Sneijder, che però non c'è essendo infortunato. Giocano, o meglio, Obi è stato sostituito da Faraoni, però in campo Obi e Poli all'inizio per dare un po' di fiato, un po' di energia, un po' di vigore ai vecchi monumenti, Zanetti e Cambiasso. Un Inter che non ha detto e non sta dicendo nulla, che ha ormai fuori dalla Champions League, ha un obiettivo solo peraltro lontanissimo, cioè il terzo posto, che però dista davvero molti punti. Non produce effetto questa punizione tirata dai nerazzurri sugli altri campi. Invece, dopo che con tripletta di Piniglia il Cagliari ha sotterrato il Cesena, che mi sembra ormai insomma avviato, molto molto ben avviato verso la retrocessione. Ebbene, dopo questo 3-0 iniziale stiamo vedendo il Chievo vincere con merito a Bologna 2-1, gol di Andreolli al 27esimo del primo tempo, quindi il pareggio di Di Vaio, molto contestato dai clivensi ingiustamente perché c'era una presunta posizione di fuorigioco che però le immagini hanno dimostrato non c'era, quindi regolare il gol dell'1-1 di Di Vaio. Ha messo d'accordo tutti Terò, servito da assist da destra di Pellissier al 24esimo, dunque Bologna 1, Chievo 2. La partita più bella del pomeriggio è sullo 0-0 ed è Catania-Lazio, stanno giocando tutte e due piuttosto bene a viso aperto con diverse occasioni da entrambe le parti, non so se finirà con questo risultato a occhiali. Detto di Inter-Atalanta 0-0, gara strana invece a Lecce 1-1, il Lecce aveva iniziato subito molto bene segnando con Di Michele, fallo di Muñoz su Bertolacci, rigore giustissimo fischiato da Tagliavento e trasformato da Di Michele. Lo stesso Muñoz al 15esimo si è fatto perdonare il rigore segnando di testa su corner di Ilicic, è uscita da coprirsi gli occhi di Benassi che è andato a farfalle. Comunque resta sull'1-1 questa gara e sul 10-10 numero dei giocatori in campo perché sono stati espulsi Oddo al 17esimo e Bertolo al 41esimo. Ultimo gol in ordine di tempo, il Novara in vantaggio a Siena ha segnato il migliore in campo Rigoni al 27esimo diagonale da destra. Ovviamente queste le partite in corso con i relativi temi che ci lasceranno. Ben più interessante è stato secondo me il sabato del Villaggio con la Juventus che si è smarcata dall'arbitro Bergonzi, da tante paturnie, dalla sua presunta incapacità di ritrovare la vittoria, dalla sua difficoltà nel trovare il gol, e ha sotterrato una Fiorentina che secondo me deve stare molto molto attenta in questo momento perché rischia davvero grosso, rischia la retrocessione. C'è il raddoppio del Novara a Siena, il gol lo ha segnato Porcari e il minuto è il 36esimo, però la giornata sportiva si è aperta con il primo Gran Premio della stagione, da lì vogliamo partire salutando Mario Poltronieri. Ciao Mario. Ciao Carlo. Buon pomeriggio, ti interromperò in caso di gol. Interessante. Sì, batto, aspetta che diciamo l'ordine di arrivo per chi non si fosse svegliato per tempo. Button su McLaren vince questa corsa a Melbourne davanti a Vettel, terzo è Hamilton che ieri aveva stampato la pole position. Per inciso, gran gol di Porcari che non c'entra nulla con la Formula 1 ma con il calcio, con un destro di controbalzo dal limite dell'area, dunque 2-0 per il Novara. Dicevamo di Hamilton, quarto Webber su Red Bull, Alonso in arrampicata selvaggia è arrivato quinto, ha limitato dunque i danni, sesto Kobayashi, settimo Raikkonen, ottavo Perez, nono Ricciardo, decimo di resta, via via tutti gli altri fuori invece Massa, e dentro invece nella porta della Lazio un gol del Catania che tra poco vi racconterò. Allora Mario, che corsa hai visto? Allora, io ho visto una corsa. Beh, al momento ero abbastanza incerto se essere annoiato o contento. Poi alla fine mi sono reso conto che comunque c'erano degli elementi di interesse. Innanzitutto si è confermato quello che si era visto nelle preprove di campionato, e cioè realmente la Red Bull non è più la macchina più veloce. Quindi Vettel ha naturalmente fatto una bellissima corsa, però non è riuscito a spuntarla su una McLaren che invece si conferma la vettura migliore adesso all'inizio del campionato. Poi la notizia che la Ferrari ha sicuramente dei problemi, ma con un pilota della forza di Alonso riesce a restare comunque nel gruppo dei primi, cioè dove la corsa viene ripresa, dove viene inquadrata, quindi la Ferrari era presente. Naturalmente questo non vuol dire che non abbia problemi, si tratterà di vedere quali sono. E probabilmente ci sono anche varie modifiche che hanno comportato delle difficoltà di adeguamento, è vero. Primo, teniamo presente che rispetto allo scorso anno il giro più veloce di Vettel l'anno scorso era di 1 secondo e 4 decimi più forte di quello attuale, quello che avevo ottenuto ai multi prove. Quindi vuol dire che quelle modifiche sono state fatte obbligando agli scarichi esterni invece che sotto la macchina per migliorare l'aderenza, e il cambiamento delle caratteristiche delle gomme hanno comportato un leggero rallentamento, ma soprattutto hanno raccolto il pacchetto, ma alcuni non ne hanno avuto vantaggio, in particolare appunto la Red Bull, che doveva essere teoricamente, visto lo scorso anno, la vettura da battere. Sì. E per quel che riguarda i piloti, ovviamente Button ha fatto una bellissima corsa. Tu sai che io sono un po' un tifoso di... Sì, anch'io sono tifoso di questo soldatino che non regala molto allo spettacolo, non è un gran personaggio, eccetera, però è uno che quando può vincere lo fa, è uno che regala pochissimo. Mario, mi sembra che così a grandi linee, comunque tornando alle macchine, poi parliamo dei piloti di Button naturalmente. La McLaren ha lavorato bene in inverno, la Ferrari meno. Adesso siamo tutti qui a domandarci quanto tempo servirà per la solita rimonta, per il solito recupero. Ma secondo quello che ha detto, credo anche Domenicali, la sostanza è che loro penseranno di essere pronti alla prima gara europea in Spagna. Parliamo di 4 gare in cui dovrebbero esserci degli aggiustamenti. Adesso si tratta di vedere se quel progetto si può modificare abbastanza velocemente in tutti quei particolari che si sono rivelati evidentemente di difficile interpretazione, perché la riprova più bella la si ha come sempre controllando i piloti. Alonso fuori classe ed è riuscito a stare coi primi. Massa, indipendentemente poi dell'incidente, della fermata, eccetera, dell'urto con Senna e così via, comunque Massa ha dimostrato e ha detto anche esplicitamente: io questa vettura non riesco a guidarla, queste gomme non vanno bene, che la tenuta di strada non c'è. Quindi il problema Ferrari è ancora aperto. Io lo vedo meno drammatico di quello che hanno ipotizzato alcuni, cioè questa è una macchina sbagliata per quest'anno, non fare niente come quella dell'anno scorso. Non è vero. Io credo che possa correggersi, però bisogna vedere quanto tempo ci mette. Invece, tornando al discorso piloti, oltre a Button, che come dico è molto concreto, è un tattico abilissimo, è riuscito a far imbecillire ancora una volta Hamilton soffiandogli la prima posizione in partenza. Quindi direi che ha fatto una corsa molto valida. Vettel si è difeso benissimo, ha dato chiaramente la sensazione di non riuscire a raggiungere Button, e questo dimostra che tra le due vetture, tra McLaren e Red Bull, c'è una reale differenza di prestazioni in questo momento. Sì. Io mi aspettavo che Schumi, dopo le prove che aveva fatto e dopo la partenza diciamo abbastanza veloce, avrebbe potuto fare una corsa interessante, ma purtroppo lui è ancora un pochino irruento come una volta. Sì. Evidentemente queste macchine supportano meno l'irruenza che aveva lui. Certo. Per cui ecco l'arrivo, l'uscita di strada, poi i problemi al cambio, insomma ne ha avute, ma penso che lo si rivedrà, perché durante le prove ha dato la sensazione comunque di tenere il passo Sì, certo. del suo più giovane amico Rosberg. Quindi Per il resto direi è tutto aperto. Francamente la Mercedes io credevo fosse un po' più avanti. Sì. E così potremmo dire che la terza squadra è la Ferrari, però è chiaro che tutto si può fermare. Per limiti altrui, diciamo, per limiti altrui più che per meriti propri, perché le prove di ieri sono state abbastanza imbarazzanti. E poi varrebbe la pena, per i motivi che hai detto tu, domandarsi, ma siamo dopo la prima gara della stagione, l'abbiamo fatto già in passato, domandarsi fino a che punto valga la pena di insistere su un pilota come Massa, che tra l'altro dicevi non è adatto alle caratteristiche di questa macchina. No, non ti sento più. Non mi senti più, Mario? Allora ti saluto perché sono in tempo di viabilità e il Gran Premio l'abbiamo sviscerato. Poi vi faccio alla prossima, naturalmente, con Mario Poltronieri, poi vi faccio sentire anche un paio di voci di Alonso dopo questa gara. Alonso che ha limitato i danni, l'ha detto lui, però voglio aggiornarvi sui risultati di Serie A, perché alcune cose sono cambiate. Detto del gol del vantaggio della Lazio del Catania sulla Lazio, che è molto importante soprattutto per la corsa verso quel terzo posto per cui stasera si giocherà una specie di spareggio a Udine tra Udinese e Napoli, lo ha segnato Le Grottagli in mischia al 35esimo su azione di calcio d'angolo. Poi c'è il pareggio del Bologna con Diamanti, 35esimo sinistro dal limite non trattenuto da Sorrentino. Ma l'ho detto prima, il raddoppio del Novara a Siena 0-2, il secondo gol lo ha segnato Porcari, sempre 1-1 tra Lecce e Palermo e sempre 0-0 tra Inter e Atalanta, con l'Atalanta che qualcosa da recriminare nei confronti del signor Gava potrebbe anche averlo, perché io prima ho visto un fallo abbastanza netto in area di Lucio su Gabbiadini che non è stato sanzionato. Gava intanto invece sul prato di San Siro continua a distribuire qua e là cartellini gialli. Confusi ultimi assalti dell'Inter per cercare di vincere almeno la partita con l'Atalanta, mentre mancano 2 minuti più recupero a San Siro, resta lo 0-0. Quanto agli altri risultati non si è mosso nulla, se non il Catania che va a colpire un palo con Lodi di testa, quindi legittimando la vittoria. Comunque il Catania che gioca un calcio splendido, complimenti a Montella, per cui è derby personalissimo questo con la Lazio. 2-2 tra Bologna e Chievo, sono tutti parziali naturalmente. Lecce 1, Palermo 1 e Siena 0, Novara 2. A Lecce siamo, per la cronaca, entrati nel tempo di recupero che durerà 4 minuti. Altra notizia sportiva della mattinata, prima di farvi sentire Alonso, c'è Federica Brignone che è arrivata terza nell'ultimo slalom gigante della stagione che si disputava a Schladming. La gara è stata vinta dalla tedesca Victoria Resenburg, che ha conquistato anche la Coppa di Disciplina davanti alla Fenninger. Dunque bravissima Federica Brignone, è una stagione tutto sommato molto positiva secondo me per lo sci azzurro. Non so cosa ne pensate voi. 800 24 00 24, numero verde, attacca ancora al Palermo. Si dice che potrebbe essere l'ultima panchina per Mutti, magari la salva con questo pareggio in trasferta, chissà. Magari potrebbe essere anche l'ultima per Ranieri dopo questo 0-0 contro l'Atalanta, mentre nel prossimo weekend l'Inter andrà a far visita alla Juventus. Io non credo che a Torino ci andrà Ranieri. No, anche qui non so come la pensate voi. 800 24 00 24. Ma torniamo a chiudere il capitolo della prima Formula 1 stagionale per sentire cosa ha detto dopo la gara Fernando Alonso. Penso che è stata una bella sorpresa il risultato. La partenza è stata fantastica, è partito molto bene la macchina, anche penso Felipe, perché ho visto sul specchietto che era dietro me, quindi penso tutte e due le Ferrari hanno partito bene ancora. Poi qualche sorpasso e qualche battaglia in pista bella, e alla fine, come dici, dietro le due McLaren e le due Red Bull è un buon risultato. Dopo come è andato il weekend, dopo le caratteristiche che abbiamo trovato nella macchina, quindi priorità numero uno è migliorare, essere un po' più veloce per lottare con loro, ma quando un weekend così difficile come questo riusciamo a fare quinti e non perdere quasi punti è una buona notizia. Così Alonso, che ha parlato anche delle difficoltà che la Ferrari sta incontrando, proprio come l'Inter che insomma va vicina a beccare il gol dall'Atalanta su un'azione di contropiede. Resta 0-0 a San Siro. Alonso. un punto più nero è che siamo un secondo più o meno dalla pole, che è quello che abbiamo visto ieri. Oggi in gara non so ancora i dati analizzati, ma penso che sarà più o meno il distacco così, quindi questa è la cosa che dobbiamo migliorare. La griglia si è ristretta molto, quindi in un secondo abbiamo 7-8 team, e quindi questo in un senso una buona notizia, perché se riusciamo a migliorare 4-5 decime in un modo accorto, in un modo breve, penso che possiamo guadagnare 6-7 posizioni, quindi questa è la prima priorità. Abbiamo la possibilità di vedere come finiscono queste partite e intanto di chiudere insieme alle gare di oggi pomeriggio anche il capitolo 6 nazioni per la nazionale italiana che ieri ha vinto davanti all'Olimpico esaurito contro la Scozia. Giacomo Bagnasco, sipario finale sul 6 nazioni e stavolta il cucchiaione degli scozzesi, meno male. Sì, questa volta è andata così anche per esaudire e quei tifosi che erano venuti con un cartello non originale ma sempre spiritoso, che diceva: per favore potreste vincere altrimenti ci prendono in giro al lavoro. L'aveva già fatto un bambino per l'Inter, ma forse il paragone tra Inter e Azzurri in questa stagione più o meno potrebbe sì. anche starci, e diciamo che in questo caso non era un bambino, evidentemente era un adulto. Succede agli spettatori, succede anche ai giornalisti, tu lo sai, Carlo. Come no. Quindi c'è stato questo 13-6 corredato oggi dalla vittoria anche in campo femminile, rischiavamo la debacle. Sì, meno male. 29 a 12, salvataggio in corner. Invece c'è stato il 20-17 dell'under 20 che vinceva di 10 punti a pochi minuti dalla fine, insomma. In ogni caso la partita veramente importante era quella dell'Olimpico, ed è molto importante anche il dato degli spettatori, perché una cosa è riempire San Siro come è successo nel 2009 con gli All Blacks, che cioè, secondo me riempirebbero probabilmente qualunque stadio in Europa. Una cosa invece arriva la Scozia, ultima in classifica come l'Italia, e i biglietti erano esauriti peraltro da moltissimo tempo. Giacomo, che progressi hai visto in questa squadra, in questa prima edizione dell'Italia di Brunella? Ma guarda Carlo, siccome una vittoria può far dimenticare tante cose, anche i problemi, ieri era il giorno della gioia, quest'anno, quest'oggi possiamo dire che io lascerei da parte la partita di ieri, nel senso che sì. l'Italia ha fatto una partita di cuore, ha fatto la sua partita perché ha vinto i suoi palloni, c'è stata supremazia territoriale, si sono rubate molte touche agli scozzesi, però proprio con tutti questi palloni a disposizione, con un gioco offensivo adeguato, si sarebbero dovuti fare più punti. Quindi è un'Italia che in determinati momenti ha cercato di avere un gioco più espansivo, e in alcune circostanze c'è riuscita, l'abbiamo già detto. Si sono visti degli sprazzi, dei periodi brevi, magari di 10 minuti, un quarto d'ora, però qualcosa si è visto. In alcuni momenti si sono viste delle intenzioni che cominciavano a realizzarsi. Di sicuro, per quanto riguarda Brunella, rimane un grosso dubbio per la partita con l'Inghilterra, questa Inghilterra che poi è cresciuta tanto nel corso del torneo, ma che quando l'abbiamo affrontata noi probabilmente era davvero battibile. Ecco, lì c'è stata una sostituzione di Botes sì. che ha preso il posto di Barton, che potrebbe essere stato uno dei motivi della nostra sconfitta di misura. Io direi adesso, Brunella ha già detto che andrà con un certo numero di giovani a fare questa tournée nelle Americhe a giugno, e vediamo che cosa succede. Sicuramente vediamo se ieri fosse arrivata una sconfitta. Fosse arrivata una sconfitta saremmo partiti con un aereo carico di angoscia. Giacomo, ti devo salutare per dare i finali al volo in Serie A, e sono tutti tali: Bologna-Chievo 2-2, Catania-Batte Lazio 1-0, Inter-Atalanta 0-0, Lecce-Palermo 1-1, a Siena vince 2-0 il Novara. Ne parliamo subito dopo il giornale radio. tempo di sport. Dunque, signori miei, l'Inter si insabbia anche in casa con l'Atalanta. 0-0 il risultato finale, un rigore sbagliato da Milito dopo 22 minuti di gioco parato da Consigli. Un rigore che vi ho raccontato prima, ho provato a farlo, che mi sembrava molto netto, al 37esimo a favore dell'Atalanta per fallo di Lucio su Gabbiadini. Samuel, che si è beccato il cartellino giallo e non giocherà contro la Juventus la settimana prossima. Non so se basta, non so neanche se volete ancora Ranieri sulla panchina dell'Inter o se è il caso di, dopo l'eliminazione in Champions League, dopo questo altro mezzo passo falso e andando verso la Juve, è il caso di cambiare rotta. Io andrei così fino alla fine della stagione, perché tanto l'Inter sappiamo che insomma, più di questo non può dare. È una squadra che sta camminando sul suo lungo viale del tramonto. 800240024 è il vostro numero verde, libero spazio radiofonico sportivo per dire quel che volete, naturalmente che abbia un senso. Altri risultati della domenica, importante quello che arriva da Catania, dove Reja, dopo aver battuto la Roma nel derby e dopo aver detto con grande entusiasmo possiamo arrivare ovunque, anche al Milan, e dopo aver detto anche in settimana rimarrei alla Lazio per altri 10, 15, 20 anni, per tutta l'eternità, ebbene ne ha perse due di fila col Bologna in casa la settimana scorsa e oggi a Catania, in una partita molto bella e molto ben giocata soprattutto dallo splendido Catania di Montella, che ha i diritti che ha l'Inter, visti i punti, di puntare al terzo posto attualmente ancora in mano alla Lazio, ma che potrebbe essere scavalcata stasera perché c'è Udinese-Napoli. Decide Catania-Lazio, le grottaglie al 35esimo della ripresa in mischia con una bella conclusione secca su azione di calcio d'angolo e su difesa biancoceleste rivedibile. Detto dell'Inter, ma su cui poi credo torneremo, c'è stato un bizzarro Lecce-Palermo. Oggi Lecce aveva una grande occasione, che era quella di rilanciarsi in maniera importante nella corsa salvezza vincendo questa partita e magari insomma provocando l'esonero di Mutti, che è davvero sul filo del rasoio. Il Lecce era partito fortissimo, al quinto minuto fallo di Muñoz su Bertolacci trattenuto in area, giusto rigore fischiato da Tagliavento e trasformato poi da Di Michele. Lo stesso Muñoz però al 15esimo, cioè 10 minuti dopo, ha colpito molto bene di testa su un corner di Ilicic su uscita vuoto di Benassi per l'1-1. Dal 17esimo il Lecce ha giocato in 10 per fallo di Oddo da ultimo uomo su chiara occasione da gol, non lo so, anche questa parliamone. Al 41esimo però parità numerica ristabilita con l'espulsione di Bertolo, colpevole di una testata a Del Vecchio. Probabilmente è tardi, ma fa un gran bel colpo il Novara vincendo a Siena 2-0. E meritando ampiamente questa vittoria. Al settimo della ripresa attraversa piena colpita da Jeda e poi il migliore in campo, cioè Rigoni, diagonale da destra, gol questo molto bello per l'1-0, e il raddoppio, anche questa splendida conclusione di destro dal limite dell'area di Porcari per il 2-0 e vittoria del Novara. La classifica dice Milan 60, Juventus 56, e questo mi sembra l'argomento di giornata che ci lascia in eredità il sabato. Tra l'altro Milan che mi pare abbia insomma innestato la velocità di crociera. Brava, dicevo prima, la Juventus a smarcarsi da Bergonzi, dalle polemiche arbitrali, dall'idiosincrasia nei confronti del gol, da tutte queste cose, e a passeggiare sulle macerie di una Fiorentina che, se là dietro corressero un po' più forte, sarebbe forse la principale indiziata al terzultimo posto. Comunque bravissima la Juventus a superare anche la pressione psicologica, perché non era facile andare in campo ieri sera a Firenze comunque in quelle condizioni, sapendo che il Milan aveva regolato di giustezza il Parma. Dunque Milan 60, Juventus 56, Lazio 48, che può essere superata eventualmente da chi vincesse Udinese-Napoli, partita di questa sera. Sappiamo però che insomma Mazzarri rinuncerà ad Amsic e Lavezzi, non mi sembra una grandissima idea, visto che il terzo posto è, a questo punto diventa obiettivo fondamentale e raggiungibilissimo per il Napoli. A 41 troviamo il fantastico Catania di Montella, come dicevo, tanto statistica, 5 gare al Meazza senza vittorie da febbraio, 3 pareggi e 2 sconfitte per l'Inter, leggo una sovrimpressione di Sky. Inter 41 punti insieme alla Roma, che gioca domani con il Genoa a chiudere questa interminabile giornata di 27esima di campionato, giusto per non lasciare troppo spazio, visto che martedì c'è Juventus-Milan, ritorno di Coppa Italia, e farà caldo a Torino, l'impressione. Bologna 36, Palermo e Chievo 35, Atalanta, Cagliari 34, Genoa 33, Fiorentina e Siena 32 punti, Parma 31, Lecce 26, Novara 23, Cesena 17, ho già perso 3-0 con tripletta di Piniglia a Cagliari e a tutta l'aria di chi è già retrocesso o quasi. Tra poco sentiremo, oltre alle voci dei nostri ascoltatori, cosa che stiamo già per fare, anche le voci dei protagonisti attraverso i microfoni di Sky come ogni domenica. 800 24 00 24, sono proprio curioso di sentire cosa mi raccontate oggi. Fulvio, buonasera. Buonasera. Cosa mi racconta? Sì che la sento. Allora, no, io racconto che non sono d'accordo con lei sul fatto che Ranieri debba restare fino alla fine del campionato, perché secondo me le poche partite che mancano potrebbero essere utilizzate più utilmente, puntando sui giovani, soprattutto italiani che già nell'Inter ci sono. Non può farlo Ranieri questo? Ma Ranieri io lo vedo... è un allenatore sfortunato. Delle volte si dice che forse tra uno sfortunato e uno nuovo, meglio metterci uno nuovo, perché purtroppo Ranieri... per quanto sì, si ma commuova per 10 partite adesso magari temporaneamente io non vedrei male, per esempio, come transizione, ok, questione di patentino a parte, mi piacerebbe vedere come allenatori cambiasse Zanetti dell'Inter, sì, puntando sui giovani, cioè cosa stanno già grosso modo facendo, lei lo sa, cioè non in campo puntando sui giovani, però punterebbero su cambiasse Zanetti, che dal campo io ho la mia idea, mi piace molto l'idea. Senta, facciamo così, sentiamo cosa dice Ranieri, poi continuiamo il discorso, sta per parlare con Sky. A fine partita c'è un po' di sfiducia, di rassegnazione, di stagione che non riesce a trovare un senso? No, c'è la delusione, vogliamo far bene, non ci riusciamo, però insomma non demordiamo, non molliamo la presa. Il presidente è sceso nel primo tempo, ci ha incitato, per cui sappiamo quello che stiamo facendo. Non è una stagione facile, lo vediamo tutti. Però io ai ragazzi non gli posso rimproverare nulla, sapevamo che nel secondo tempo avremmo pagato la fatica di Champions League contro un Atalanta che gioca in quella maniera, si richiude bene, riparte in contropiede, veloce, rapido. Noi siamo stati bravi nel non dargli per 80 minuti nessuna opportunità, e poi che all'ultimo hanno creato qualcosina, beh, ci sta pure. Noi abbiamo sbagliato un calcio di rigore, quello non ci voleva, però adesso programmeremo bene di settimana in settimana tutte le partite che ci sono. In ottica obiettivo terzo posto, comunque posizioni che possono contare qualcosa, questa è proprio una grande occasione persa, anche in virtù della sconfitta della Lazio e Catania. Sì, è vero, però noi adesso dobbiamo guardare partita dopo partita senza illudere i nostri tifosi, obiettivo terzo posto, tutte queste parole qua, no, ci siamo riempiti la bocca fin troppo, no? Per cui adesso cerchiamo di fare le cose come stiamo facendo, con molto professionalità, con senso di appartenenza notevole, perché questo è un gruppo che vede che è una stagione storta, però non molla, è un gruppo unito, compatto, avete evidenziato che ci sono gli spogliatoi chiusi, insomma chissà che cosa sta succedendo, non sta succedendo assolutissimamente nulla. A livello di rapporti, anche per capire se c'è una piccola polemica in questo senso, c'è stato qualche problema con Forlan durante la partita, alla fine, se si è rifiutato di entrare il giocatore? No, non si è rifiutato, era una cosa tattica che io stavo parlando con lui e non si è rifiutato. Ilaria? La cosa tattica, pare che si sia rifiutato di entrare in campo a 10 minuti dalla fine, questo non lo so, sarà stata anche una cosa tattica. Allora Fulvio, per chiudere, lei è sempre convinto che Coppia cambiasse Zanetti al posto di... Questo se fosse possibile, però in alternativa, siccome noi abbiamo bisogno di interismo, secondo me bisogna ritrovare un po' di interismo. Io non vedrei male neanche Zenga. Me l'aspettavo. Zenga sulla panchina dell'Inter, e mi piacerebbe Lucio come capitano con un sacco di giovani italiani intorno. Questa è la mia idea. Per carità, Lucio capitano. Ma Lucio è capitano del Brasile. Ho capito, ma ce lo vedo poco. Oggi se Gava fischia, magari è 0-1, perché fallo da rigore su Gabbiadini. Ma al di là di questo, Lucio a me non è giocatore che faccia emozionare più di tanto, non è il giocatore che mi faccia impazzire. Comunque ognuno ha le sue idee, se le tiene. Secondo me servirebbe a poco cambiare Ranieri per le ultime 10 partite. L'Inter deve andare così com'è, cioè pianissimo, insomma, mi sembrano, insomma, L'obiettivo deve essere, più che il terzo posto, chiudere la stagione e questo è il ciclo di questa squadra con la maggiore dignità possibile, perché questo sì sarebbe giusto chiedere, secondo me, a senatori e non. Poi non servono Zanetti e Cambiasso in panchina per far giocare i giovani, perché anche oggi Ranieri ha messo, come normale che sia, Obi e Poli, perché non può rinunciare quantomeno all'energia di questi ragazzi per sostenere i monumenti, Cambiasso e Zanetti per l'appunto. Elisabetta, buonasera. Buonasera. Allora, io non le permetto, mi scusi, magari il mio tono un po' acceso, di dire che l'Inter è sul viale del tramonto. No, è una squadra freschissima. No, aspetti, quando io dico che una persona è sul viale del tramonto, sì, significa che è una persona che sta morendo. Le parole hanno un senso, le parole hanno un senso e hanno un valore. Allora, Sunset Boulevard di hollywoodiana memoria. Allora, l'Inter è una squadra. Lei vada a vedersi su un vocabolario quello che vuol dire, cosa che io ho appena fatto, e vuol dire che è una squadra che sta morendo. Allora, l'Inter non sta assolutamente morendo, è in un momento di grande difficoltà, lo riconosciamo tutti noi interisti, è in un momento di grande difficoltà, ma sapevamo perfettamente che dopo aver vinto la tripletta, ma è fisiologico, non sono state fatte degli investimenti per cui, anche questo, però, no? Io sono stufa di questa, di queste parole, diciamo, nei confronti dell'Inter, perché se lei mi dice che è una squadra in difficoltà, sono, guardi, d'accordo con lei. Se dico a fine ciclo, non è d'accordo con me di nuovo? No, a fine ciclo, a parte che non mi sembra, non mi sembrano appropriate le parole, perché le parole hanno un senso. Sì, ho capito, hanno un senso, e il mio punto di vista è che l'Inter è a fine ciclo e il ciclo dell'Inter si è chiuso la notte di Madrid, questo è il mio pensiero. Quello sicuramente, però, allora oppure stiamo finendo un ciclo, ma ne apriremo sicuramente ma un altro. Per carità, ma se lei dice che l'Inter è una squadra sul viale del tramonto, vuol dire che è una squadra finita e che sta morendo. Ma non l'Inter, questo gruppo, questa squadra, no, com'è, lei fisiologica. Adesso, guardi, vada a sentirsi la registrazione. Ma no, ma non ne ho bisogno, lei ha detto, Elisabetta. L'Inter è una squadra sul viale ha stravinto, mi arrendo. No, ma io non voglio stravinto. No, ma l'Inter, ascolti, è una squadra sul viale del tramonto, ma lo dico e lo ripeto, ma è una squadra che questo gruppo è finito. Non dico che sparirà l'Inter, non ho detto questo e non ci penso neanche. Semplicemente questa è una squadra che ha finito il suo ciclo. Se le piace di più così, dico così. Se non le piace il viale del tramonto per un'altra ragione, che a me piace di più, mi sembra perfino un po' più poetico, allora pazienza, insomma. Marco Ansaldo, prestigioso inviato della Stampa. Ciao Marco. Ciao. Viale del tramonto o no? Che cavolo ne so. Viale del tramonto per chi? Scusa, non ho seguito. Ma per l'Inter, mi dicono, c'è una gentile ascoltatrice, Elisabetta da Milano, che mi ha fatto un paiolo così, perché dico che l'Inter è una squadra sul viale del tramonto, dalla notte di Madrid. Sì, evidentemente questa ascoltatrice non vede l'Inter da un po' di tempo, perché mi sembra che abbiamo già passato il viale del tramonto, siamo già proprio sul viale della fine di una squadra, non di singoli giocatori, alcuni sono ancora in grado, secondo me, di proseguire, di andare avanti, non tantissimi. Ma oggi si è visto chiaramente che ci sono dei giocatori che, in caso sono due, o stanno giocando contro qualcuno, oppure sono veramente arrivati alla fine, almeno nell'Inter. Poi magari se vanno da un'altra parte, chissà, trovano ancora un po' di stimoli per giocare, ma il signor Maicon è una cosa inguardabile oggi. Lucio mi sembrano una parata di vecchi monumenti. Ma sì, Lucio è una cosa imbarazzante. Cambiasso, poveretto, si vede che avrebbe voglia di fare le cose, ma non gli riescono più. È una squadra che Milito ha sbagliato due rigori in due partite e oggi l'ha calciato proprio male, cioè non è malissimo, che abbia fatto una cosa. Quindi, un sospiro. Bisogna prendere atto, in più hanno quell'allenatore lì, quindi cosa vuoi fare? Non è che puoi andare avanti tanto bene. No, l'obiettivo deve essere quello di chiudere in maniera dignitosa questa stagione, perché questa squadra, per quello che ha fatto, lo merita, ma mi sembra inutile e fuorviante parlare di terzo posto, di altre cose. Ma sai, stanno giocando tutti talmente a Ciapanò contro la Juve e Milan, che in teoria potrebbe ancora essere possibile, perché vedi che la Lazio appena appena si è affacciata all'idea di poter prendere il terzo posto, addirittura agguantare la Juventus, è andata male. Sì, alla signora Elisabetta non piacerà, però le altre mi sembrano un po' più vive rispetto all'Inter. Sì. Marco, invece, la Juventus di ieri sera, se pensa a giocare più che a Bergonzi, se si smarca da troppe pippe mentali, che in parte anche ingiustificate, è una Juventus che può correre fino alla fine sulla base di quello che è, secondo me, il segreto di Pulcinella, cioè Vucinic che si è riacceso nelle ultime due partite, e per la prima volta nelle ultime due partite ho visto il Vucinic della Roma, è l'unico che può fare la differenza là davanti. Sono tornati i gol di Pepe e Di Marchisio, cioè gli ingredienti che avevano portato la Juventus in testa alla classifica. Hai ragione, soprattutto devo dire che hai ragione nella prima parte, cioè tutto questo carico da 90 sugli arbitri, che in parte era giustificato comunque, comunque tutto questo carico da 90 sugli arbitri secondo me ha fatto più male alla Juventus che non agli altri, nel senso che ha caricato comunque di nervosismo i giocatori che alla minima errore arbitrale sentivano di essere delle vittime e così via. Ieri hanno giocato direi una partita molto serena, per carità, aiutati dalla peggior Fiorentina degli ultimi 10 anni probabilmente. Sì. E hanno giocato bene nel senso che ho rivisto, dopo un mese di flessione evidente, ho rivisto una squadra che ad esempio giocava con dei passaggi precisi, veloci, nitidi. Ma si era vista già a Genova, questa Juventus che non aveva trovato il gol. Sentiamo insieme quali sono le giustificazioni di Reia, che dopo il derby voleva andare a prendere il Milan. Niente, perché la squadra ha lavorato bene, molto ma molto meglio rispetto ad altre gare, e sotto questo punto di vista bisogna anche dire che abbiamo fatto una buona gara. Nell'unica palla che loro hanno avuto c'era Klose che l'aveva sulla testa, non l'ha vista, perché almeno così mi ha detto che aveva il sole contro e non è riuscito a vederla, e purtroppo per questo episodio qui abbiamo perso una partita certamente non meritavamo di perdere. Di solito la Lazio Reia in questa stagione, soprattutto nel 2012, dopo le pesanti sconfitte, aveva sempre trovato la forza di reagire. Questa volta no, almeno a livello di risultato. E mai in questa stagione aveva perso per 2 volte consecutivamente in campionato. A 10 giorni dalla fine, è un campanello d'allarme questo? No, perché guardando la squadra oggi come ha lavorato non è assolutamente un campanello d'allarme. Poi oltretutto Radu era fermo da parecchio tempo, Brocchi è rientrato dopo 4 mesi, hanno fatto i 90 minuti, pertanto sono, penso, completamente recuperati. Sotto questo punto di vista è chiaro che dovremmo migliorare, essere un po' più cattivi, più determinati in fase conclusiva, perché oggi abbiamo creato, se non vado errato, ho avuto una palla a Mauri, abbiamo fatto delle buone azioni, abbiamo fatto le buone ripartenze, abbiamo sfruttato le zone laterali anche centralmente, anche sugli inserimenti, pertanto noi la partita l'abbiamo fatta e niente, il Catania è stato un po' più fortunato di noi. Buona parte delle fortune. Non so se è solo questione di fortuna, caro Marco Assaldo, ma i derby si pagano. Questo mi sembra abbastanza scontato. Marco? Eccomi. No, stavo sentendo Reia. Io sono qui a San Siro e c'è un po' di movimento, insomma, ovviamente attorno alle dichiarazioni dell'Inter. Cosa succede secondo te all'Inter adesso? Ma credo che non succeda niente di così di definitivo, nel senso che ho l'impressione che Moratti si sia veramente stufato di questa situazione, che peraltro lui ha contribuito a creare. Il fatto che sia andato via alla fine del primo tempo dalla tribuna, è rimasto nello stadio fino a un certo punto, poi mi dicono che se n'è andato via anche dallo stadio, è la dimostrazione che ormai questa squadra gli sta dando fastidio in qualche modo, no? Però mi dicono anche che non ha molte intenzioni di cambiare ancora allenatore, perché gli costerebbe e deve cercare di difendere il capitale che ha fino all'ultimo. Quindi non penso a delle prese di posizione, immagino che non ci saranno delle prese di posizioni definitive. Certo che qualcosa però deve cambiare nell'Inter, qui cominciano a volare gli stracci. Sì, me lo immagino. Ti lascio lavorare, Marco, grazie. Figurati, ciao. Alla prossima, grazie Marco Ansaldo. Davide da Bologna, poi Gianni da Parma, 800 24 00 24. Posso sentirli o dopo? Buonasera. Buonasera a chi? Chi è? Davide. Davide, prego. Salve, senta, Volevo domandare, quanto secondo voi è decisiva stasera il posticipo tra Udinese e Napoli per la lotta al terzo posto, considerando che comunque mancano altre 10-11 partite, mi pare, quindi 30-33 punti, e comunque considerando che la Lazio è in, sembra in fase calante dopo il derby. Molto l'altra domanda è molto importante. Molto importante, naturalmente non decisiva, perché poi mancano 10 partite per l'appunto e quindi troppi punti. Però è molto importante perché, vorrebbe dire rimettere il naso sul podio. Esatto, l'altra cosa però, se effettivamente alla luce dell'importanza di questa partita non può essere un po' esagerato da parte di Mazzarri tenere fuori, come pare che sia, contemporaneamente l'Avezzi, anzi oltre a maggio, che avendo preso una botta in Champions non dovrebbe esserci a quanto... Esoglio. Grande rischio, infatti l'ho detto prima, non sono così d'accordo, però, perché per una squadra che ha la struttura, che ha le caratteristiche che ha il Napoli in una partita così importante, giocano i titolari, e a meno di esigenze, a meno che non stiano proprio in piedi, però giocano i titolari, quindi non mi sembra una grande idea questa di Mazzarri in una partita, ripeto, così importante per il Napoli. Non, certamente la delusione, certamente la stanchezza di Stamford Bridge, però se vado a Udine e la Lazio è infrenata e posso arrivare al terzo posto già stasera, consolandomi un po' per le lacrime inglesi, giocano tutti i titolari e gli altri fanno le riserve. Torniamo con le vostre voci. 800 24 00 24, il numero verde. C'è già Gianni da Parma, ma magari c'è anche la voce di Colantuono, che oggi ha pareggiato con pieno merito a San Siro con l'Inter. Veramente, per quello che riguarda le assenze, anche oggi noi avevamo 6 o 7 fuori, ma poi 6 o 7 importanti, che c'era Dennis, c'era Peluso, Lucchini, Brighi, Capelli, che non l'abbiamo operito, non stiamo facendo giocare neanche Masiello, quindi ne avevamo parecchi fuori. Sì, è vero che forse non siamo stati molto incisivi, perché anche nel primo tempo abbiamo avuto la possibilità di ripartire, ma abbiamo sempre sbagliato l'ultimo passaggio o diciamo il passaggio finale. Ed è così, è vero, perché potevamo essere più incisivi. Però ecco, come dici tu, ci difendiamo bene, siamo sempre corti tra i reparti, se ci danno la possibilità di ripartire lo facciamo molto bene. Dobbiamo secondo me solo migliorare negli ultimi 16 metri, negli ultimi 20 metri, il passaggio poi decisivo che serve per fare gol. Sì, ha ragione con Antonio in questa velata autocritica. Oggi l'Atalanta contro quest'Inter poteva usare qualcosa di più, secondo me. Gianni, buonasera. Buonasera. Io volevo, non so, seguire il ragionamento della ragazza di Milano, l'interista, l'intertriste come la chiamo io, che fanno il De Profundis, ma era ovvio. Adesso se dico De Profundis è ancora peggio forse rispetto al Viale del Tramonto. Comunque si è sempre usata la metafora nel calcio, quindi al capolinea. Al capolinea, c'è di tutto di più. La Juve c'è andata l'Inter, ci torneranno in gioco. C'è andata il Milan, c'è andato il Milan, ci perché non dimentichiamo quelle stagioni dei Sacchi bis, Capello bis, e Tabarez, eccetera, eccetera. Insomma, al capolinea il Milan ci è rimasto un po'. Bene, quindi adesso magari speriamo che non sia un morte apparente e che domenica non faccia lo scherzetto alla Juve. cosa che tra l'altro con l'orgoglio questi giocatori che sono comunque ottimi, ex giocatori, possono magari avere un corpo di coda, perché sono a fine carriera, non è mica un'offesa, hanno sbagliato progettazione della squadra. Ma no, perché l'Inter io credo che abbia chiaro l'obiettivo che dicevo prima. In questo momento non ha molto senso parlare di un terzo posto, che mi sembra francamente troppo lontano. Non ha molto senso parlare di alcun altro tipo di obiettivo, se non, e questo sì, questo io credo che anche il Moratti furioso che oggi ha lasciato lo stadio debba ordinare ai suoi giocatori di chiudere questo ciclo con tutta la dignità possibile, no? senza sbracare. Questo mi sembra il minimo sindacale da chiedere a questo gruppo. Quanto alla Juventus e alla partita con la Juventus, c'è già una buona notizia per Vucinic, Matri, Borriello o chi giocherà nel cuore dell'attacco, cioè mancherà Samuel, che altro che Lussio mi sembra il giocatore determinante lì nel tenere in piedi la difesa dell'Inter, no? Io dell'Inter mi occupo poco perché sono juventino, me ne occuperò da tifoso ovviamente domenica. Ecco, allora avete smesso di guardare troppo a chi fischia o non fischia? Avete finita questa storia o no? Ma Ah, su Vucinic sta dicendo? Ma no, Vucinic, su Vucinic, sugli arbitri, sugli arbitri. Ah, sugli arbitri, scusi, allora. Vi siete smarcati da questa paturnia o no? Ma allora, tutti gli allenatori quando hanno il gol a favore stanno zitti, quando non ce l'hanno piangono, questa è una cosa che comunque accomuna purtroppo, o per fortuna, non so che dire, tutti gli allenatori. Sì. Cioè, non ce n'è uno che, voglio dire, a parte forse Boskov, che diceva la rigore c'è quando l'arbitro pisci ed era molto serafico, gli altri, soprattutto gli italiani, siamo fatti così. Cioè tant'è vero che Conte ieri ha ritrovato anche la parola, ve lo dimostro. Bene, sicuramente bene, siamo contenti, è una prova di maturità. Venivamo comunque da, se non sbaglio, 4 pareggi consecutivi, che secondo me erano pareggi che gridavano allo scandalo, perché secondo me meritavamo molto molto di più. Oggi ragazzi è una partita molto difficile, sono stati bravi perché hanno dimostrato grande maturità, grande personalità, grande compattezza, hanno fatto un'ottima partita. Partita molto difficile per diversi motivi, non certo per il valore dell'avversario, perché la Fiorentina mi sembra in questo momento la squadra più depressa del campionato intero, insieme al Cesena già quasi retrocesso. Prima di Franco da Napoli e Roberto da Vicenza, 800240024 per far sentire le vostre voci. Un grandissimo Vincenzo Montella con Sky. Pensiamo anche in parte di meritarla, naturalmente quando sei in questa posizione di classifica devi sperare anche che le squadre più blasonate e più forte sulla carta di te possano avere una stagione non proprio ottimale, come sta succedendo a quelle davanti a noi probabilmente, però noi quelli adesso naturalmente ci dobbiamo porre pari a voi, ma la Roma è una partita in meno. Esatto, e quindi bisogna porsi dei nuovi obiettivi, perché sarebbe un peccato non approfittare di questo momento, di questa crescita che la squadra, anche i singoli, sta avendo, soprattutto i singoli stanno avendo, per finire degnamente questo campionato e per avere ancora, darci ancora qualche soddisfazione e dare ancora qualche soddisfazione ai nostri tifosi. Ecco, Montella a fine partita di Gruttagli ha detto: adesso siamo salvi, non c'erano dubbi, però è arrivata anche la salvezza, e questo già è un record con 10 giornate d'anticipo. Però ha detto: adesso ci dobbiamo divertire, le Gruttagli, insomma, puntare al sesto posto sarebbe molto divertente. Sì, bisogna porsi degli obiettivi anche singolarmente, perché sarà... a Catania si sta bene, si vive bene, si mangia bene, ci sono dei posti splendidi, quindi sarebbe un peccato non porsi degli obiettivi e fare una vita diversa, quale che quella consona un atleta, no? Voglio dire, anche inconsciamente. Quindi questo da martedì ce lo poniamo, questo nuovo obiettivo, che potrebbe essere quello di consolidare un ottavo posto, potrebbe essere quello di provare a fare qualcosa in più. Però non possiamo sognare noi da parte tecnica, lasciamo sognare i tifosi, noi dobbiamo essere realisti e cercare di singolarmente di ottenere il proprio massimo e metterlo al servizio della squadra. Quindi ragazzi, state vacuorti, ragazzi del Catania, Montella sorveglia, testa sulle spalle per altre 10 partite e non eccediamo. Ma perché Catania... davvero sarebbe un'occasione sprecata non inseguire quel sesto posto fino alla fine, perché è una delle squadre che gioca meglio in questa stagione. Franco da Napoli. Franco? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Salve, Franco. Salve. Da Napoli. Dica. Senti, vorrei parlare del Napoli. Sì. Cosa ne pensate sempre di questa difesa che schiera Mazzarri? Che secondo me, se abbiamo perso più di qualche partita, è sempre colpa della fascia sinistra. Sì. In difesa. Campagnaro, che prendiamo sempre i gol in fotocopia. Cosa ne pensate? Io penso che la stessa difesa dell'anno scorso, che pigliava pochissimi gol e che era meglio protetta dall'intera squadra. Poi sappiamo perfettamente come non siano tre fenomeni assoluti di livello internazionale i tre difensori del Napoli, ma sono estremamente funzionali a una squadra che canta in coro. Io credo che è vero, il Napoli questa stagione ha preso diversi gol, evidenziando appunto il fatto che là dietro non giocano Beckenbauer, Franco Baresi e il povero Scirea, ma giocano tre giocatori normali che, se sono adeguatamente protetti da una squadra che è forte quando gioca in maniera veramente corale, e spesso accade, Possono andare bene anche loro, oppure per far strada in Champions League, come questa stagione ha dimostrato. E di strada, mannaggia, se ne poteva fare ancora un po' di più, perché non mi va giù l'eliminazione del Napoli l'altra sera. Roberto da Vicenza. Buonasera Carlo Genta, buonasera. Buonasera Roberto, dica. Allora, senta, volevo un suo parere da Juventino come sono. Ieri sera ho visto molto bene Caceres al centro della difesa. Volevo un gentile suo parere su questo argomento. E seconda domanda è, al centro dell'attacco della Juventus, visto che ci manca il bombardiere, cosa ne dice tra Cavani e magari Dennis? Ecco, un'idea che avevo era anche questa, grazie. A lei Roberto, Caceres al centro della difesa finché non rientrano gli altri, facciamo così, se la sbriga perché è anche un giocatore di esperienza, ma non è il suo mestiere, nell'emergenza l'ha fatto, può farlo, però che rientrino presto quegli altri, perché sono esperimenti che a lungo andare non puoi permetterti senza pagare. Per la Juventus vale comunque il discorso che ho fatto ora per il Napoli. Ha una difesa molto ben protetta, secondo me, dall'intero gioco della squadra, dunque anche un giocatore che è fuori ruolo, chiaramente, come Caceres, riesce a fare il suo. Quanto al bombardiere di cui sopra, lei dice Cavani o Dennis, che mi sembrano due giocatori molto diversi anche dal punto di vista anagrafico. Dennis è piuttosto in là con gli anni, Cavani è invece una superstar attuale del calcio internazionale. Mi sembrerebbe una splendida idea, bisogna capire cosa ne pensa De Laurentiis. È chiaro che alla Juventus manca il centravanti dal colpo risolutivo, però torno a ripetere quanto ho detto prima, il giocatore più importante, il giocatore che fa la differenza in questa Juventus offensivamente è soltanto uno, e si chiama Mirko Vucinic. Ecco che torniamo. Come sapete, ieri sera a Parma era tornato 18 anni dopo il comitato politico. C'era Berlusconi in trasferta con seguito a vedere la partita del suo Milan. Sentiamo che cosa ha detto. Sembra bene, tenendo presente che siamo sempre in una formazione che non è vicina a quella tipo, che abbiamo molte assenze, però mi sembra che anche coloro che sono scesi in campo non abbiano sfigurato, quindi buon gioco e direi il risultato giusto. Questo vuol dire anche che è merito di Allegri. Beh certo, guarda, l'allenatore è il 12° uomo in campo quando non lo fa l'arbitro. Buon gioco e Allegri 12° uomo in campo quando non lo fa l'arbitro, sennò diventa il 13°. Ettore. Sì, buonasera, io sono un tifoso juventino. Sì. E volevo porle due domande. Uno, prego. Innanzitutto, diciamo, un pronostico da parte sua per quanto riguarda la partita di martedì, su chi riuscirà a superare il turno. E poi un'altra domanda: se la differenza tra Milan e Juventus non sia solo un discorso di Ibrahimovic, ma possa essere stato quest'anno anche un discorso di preparazione fisica nel periodo natalizio, diciamo, quando sono andati all'estero entrambe le squadre, magari sia stata fatta una preparazione fisica differente, perché ora mi sembra, diciamo, dalla partita di Genova che la Juventus abbia ripreso un poco anche fisicamente, diciamo, sì, una maggiore velocità. Questo mi sembra fisiologico nel corso di una stagione, insomma, no? Mi sembra fisiologico quanto lei dice, e che è certamente accaduto, perché la birra serve ora. Mannaggia, mi sono perso Marco Branca su Sky, se no me lo facevo sentire. Marco Branca che oggi ha parlato del suo presidente, di come si arriverà a fine stagione, di come si ricostruirà il futuro. Niente di eclatante, in realtà, se non un po' di veleno spruzzato sul mai tanto amato Lelio Reali, che ha detto ma non ha, a dire la verità, mai partecipato Reali alle operazioni di mercato. Dunque, quanto alla preparazione della Juventus, mi sembra evidente il discorso fatto. Quanto alla partita di martedì, la Juventus parte con il vantaggio della vittoria in trasferta. Spero sia una partita di pallone con sufficiente civiltà in campo e fuori, prima e dopo la partita. Io mi auguro solo questo, poi chi passa passa e vediamo chi va a sfidare in finale la vincente di questo confronto. La temo molto questa partita dal punto di vista degli urli e delle degli strepiti e delle code polemiche, delle frecciate, delle battute, delle volgarità assortite. Temo molto questo. Intanto saluto Federico Casotti della redazione di Sport Italia. Ciao Federico. Ciao Carlo, buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori. Il grande esperto di calcio francese mi deve spiegare come una squadra, non si arrabbia Elisabetta, non si arrabbia Elisabetta, ma come una squadra sul viale del tramonto come il Marsiglia possa eliminarne una che probabilmente è un po' più avanti su quella stessa strada come l'Inter. Evidentemente, insomma, la distanza, anche proprio in termini quasi visibili, la si è vista a San Siro. Probabilmente l'Inter è un po' più avanti rispetto al Marsiglia nel fine ciclo. Sì. Anche se in realtà. E lo si nota anche dalla sfiga nera, no? Perché sì, esatto, alla fine. Chiami, chiaramente. È un Marsiglia che peraltro in campionato ce la sta mettendo tutta per provare a superare l'Inter in questo parallelo, perché ha perso 5 partite di fila, e che è una cosa che non succedeva dal 1979, leggevo oggi sui giornali francesi. Quindi si tratta veramente di un blackout totale, anche perché ha perso tutte sfide contro squadre che lottano per salvarsi, buon ultimo contro il Digione ieri, Digione che la settimana prima aveva a momenti non strappava un punto al Paris Saint-Germain di Ancelotti. Come gioca il Paris Saint-Germain di Carletto? Diciamo che l'impronta di Carletto per il momento sul gioco non si vede molto, però va detto che cambiare allenatore in corsa, cambiare anche 3 giocatori importanti a metà stagione, perché sono arrivati Alex, Maxwell e Thiago Motta in una squadra che era già stata completamente stravolta in estate, è vero che la somma delle individualità poi non mente, perché probabilmente questo campionato il Paris Saint-Germain lo vincerà di inerzia, però per il gioco è chiaro che bisognerà attendere l'anno prossimo e magari andare anche a sistemare qualcosina, perché comunque alcuni acquisti, in primis Alex e Diego Lugano, non è che convincano particolarmente, però è una squadra che non molla mai, perché ha fatto 5 punti nelle ultime 4 partite con gol dall'89 in poi. E quindi l'impronta di Ancelotti si vede come in questo. Perché... Esatto, sotto l'aspetto del carattere sicuramente non può essere casuale il fatto che con il Lione ha pareggiato al 94esimo, col Digione hanno vinto al 91esimo, ieri hanno pareggiato al 90esimo dopo essere stati messi sotto da una squadra che lotta per non retrocedere, soprattutto hanno pareggiato alla 2 minuti della fine con il Montpellier, quello è un punto che vale triplo, perché era lo scontro diretto. Senti Federico, come vedi invece questo Milan che in campionato ha trovato la velocità di crociera in maniera evidente, grande suggestione per la partita con il Barcellona. Io do poche chance ai rossoneri, c'è chi ne dà di più, ho sentito anche dichiarazioni di grande ottimismo, no? Il giorno del sorteggio, come chi urla nel bosco per farsi passare la paura. Poi ieri sera ho visto il Barcellona, l'ennesimo gol di Messi con quel colpo sotto, e dico: ma dove vogliamo andare? Sulla partita singola forse il discorso sarebbe stato più aperto, perché la partita singola in quanto tale è comunque soggetta all'episodio o alla giornata storta, che può anche esserci una su 100 di questa squadra che sembra imbattibile. Sulla doppia sfida i valori raramente mentono, e quindi il Barcellona non può che partire favorito. Però ho apprezzato da un certo punto di vista però anche se non la spavalderia, comunque il coraggio dell'ambiente rossonero, perché è comunque una squadra, una delle poche che per palmarès e per spessore può provare a giocare. Al di là dello scherzo, è certamente una sfida che dal punto di vista sportivo è meravigliosa, cioè meglio tutta la vita giocarsela con i più bravi, perché è bello, perché è bello giocare, è bello vivere partite così, anche da sfavoriti, non c'è dubbio. Invece, per chiudere, Federico, sono rimasto davvero male, visto che sei esperto anche di calcio olandese, sono rimasto davvero male, davvero deluso dall'eliminazione dell'Udinese per mano di un Alkmaar che non mi è sembrato uno squadrone. È un'eliminazione che secondo me, sulla quale secondo me deve riflettere l'Udinese e un po' anche tutto il calcio italiano, perché l'Udinese nel tabellone dei quarti di Europa League ci sarebbe stata tranquillamente, non ha niente di meno delle otto squadre che sono passate. Poi ha voluto fare come le grandi, cioè come il City e lo United, vabbè, andiamo fuori anche noi, va. Solo la differenza che forse all'Udinese, insomma, anche ai tifosi dell'Udinese penso che non dispiacerebbe magari provare a giocare una finale, a provare anche a vincere un trofeo da toccare, da festeggiare, invece che un piazzamento che magari porta soldi, però è molto più immateriale. Di fatto sono la buttata via l'andata, e con l'aggravante di giocare la gara di ritorno in 11 contro 10 per 87 minuti, certo, e di trovarsi 2-0 al quindicesimo. Certo. Però la Zed è comunque una buona squadra, sì, certo, è una filosofia di gioco interessante, perché comunque gioca a centro con un 4-3-3, sì, con tre trequartisti. No, ma certo, una squadra interessante, però l'Udinese, no, però l'Udinese doveva saltare questo ostacolo e sono molto deluso. Grazie Federico Casotti. Amici ascoltatori, ci sentiamo dopo il GR 800 24 00 24, io vi aspetto. Oh, ragazzi, svegliatevi, mi dicono che gli ascoltatori stanno un po' latitando, probabilmente interisti depressi, juventini scaramantici, milanisti dormono perché tanto poi c'è Ibrahimovic, i Viola hanno già espresso i loro pensieri nello striscione messo oggi al Franchi, fate schifo, non ci vogliono molte parole. Coach Corner, angolo dell'allenatore, Gianni De Biasi, nostro amico, ciao Gianni. Ciao Carlo, un saluto. Come stai? A tutti i radioascoltatori. Tutto bene? Sì. Senti, ma tu cambieresti allenatore all'Inter 10 giornate dalla fine per fare che cosa? Assolutamente no. Non sono poi per il cambio degli allenatori, devo essere sincero. E in questo momento l'Inter paga probabilmente il ritardato rinnovamento negli anni scorsi. È chiaro che non è facile quando tu fai un triplete pensare di cambiare, diventa veramente difficile perché c'è tutta una serie di annessi e connessi che ci vanno inseriti, però è chiaro che l'Inter da troppi anni ha le stesse facce, ha gli stessi giocatori, tanto di cappello, tanto di rispetto per queste persone, però bisogna ogni tanto pensare a ringiovanire la squadra con giocatori, certo, di qualità. Come ti stai trovando da CT dell'Albania? Ma è tantissimo lavoro, è un impegno materiale? Interessante. È chiaro che non ho di primissimo livello, però mi devo dire che ho sicuramente un portiere forte, che è Wicani, che voi conoscete, sì, e che ha anche il vizio di parare dei rigori, questo sicuramente aiuta molto. Questo aiuta. Senti, è la stagione dei pollini, delle coppe e delle polemiche arbitrali, anche un po' pretestuose secondo me fin qui. Sì, sono convinto, e ti ho sentito in qualche circostanza e sono d'accordo con te. Mi riferisco principalmente a una squadra che è oggi seconda in classifica, che deve secondo me concentrarsi un po' meno sugli errori arbitrali, sulle sviste, perché questo non aiuta a raggiungere gli obiettivi, ma dà degli alibi ai giocatori che probabilmente potrebbero aspettare solo di attaccarsi da qualche, esatto, paletto per, Esatto. Gianni, ma quelli secondi in classifica secondo te hanno reali velleità nei confronti dei primi che sembrano aver innestato marce di crociera, insomma? I primi che sono partiti sicuramente a passo ridotto, poi hanno recuperato strada facendo e sono andati via via migliorando tutti gli aspetti. È chiaro che hanno avuto molti assenti nel corso della stagione, giocatori anche importanti, e questo sicuramente si fa sentire nell'ottica, anche perché hanno impegni su più fronti. Sicuro. Uno tra tutti, tra poco, che non è di poco conto, e quindi direi che il Milan può essere solo distratto o qualche energia gli può essere portata via dalla Champions. Sicuro. Gianni, un'ultima cosa, ieri la Juventus ha stradominato, ma la Fiorentina in questo momento è davvero poca cosa. Non andassero così piano, quelle là dietro sarebbe seriamente candidata alla retrocessione, cosa che è peraltro. Sì, ci sono 10 partite, facciano gli scongiuri quelli della Fiorentina, perché l'anno scorso la Sampdoria è retrocessa più o meno con le stesse modalità, quindi questo suona come un campanello d'allarme per la Fiorentina. Rossi sta facendo quello che può, sicuramente un allenatore capace e competente, quando però ti capiti in situazioni di questo genere qua difficilmente riesci a raccapezzarti, questa è la cosa più preoccupante. Grazie Gianni, buon lavoro. Grazie a voi, abbraccio. Saluto tutti i ascoltatori. Grazie serata. Gianni. Ciao. De Biasi. C'è Angelo da Catania che scrive: ma ne vogliamo parlare di questo Catania in zona UEFA? Peccato che non abbiamo lo stadio omologato. Lo so. Io spero che il Catania ci arrivi in zona UEFA se i giocatori, come ha detto prima Montella, non si distraggono tra baccanali, feste e altre bellezze che la Sicilia, in particolare Catania, sa proporre. 800 24 00 24, se vuole, Angelo, parliamo insieme anche del Catania in zona UEFA, se gli interisti non sono troppo depressi, se gli juventini non sono troppo scaramantici o non sono in silenzio stampa dalla settimana scorsa, questo non lo so, se i milanisti non dormono più, ma dormono perché tanto poi c'è Ibra che risolve loro ogni guaio, se i viola non sono pure troppo affaccendati nei loro striscioni, fate schifo, vi ricordo quello a posto oggi al Franchi. Ebbene, noi siamo qui per parlare con voi, libero spazio radiofonico sportivo, per dire quello che volete, naturalmente se ha un senso. 800 24 00 24 numero verde, messaggi 349 238 6666. C'è chi scrive anche che è della partita dopo che mi dovrei preoccupare, cioè di Juventus-Inter, se gli juventini non cambiano. Gli juventini non cambiano mai, ci saranno striscioni contro Facchetti e il resto. Beh, mi auguro, non posso che augurarmi di no, ma questa è una banalità. Più che altro io mi auguro ci sia grande senso di responsabilità da entrambe le parti nell'avvicinarsi a questa partita delicatissima, come tutti sappiamo. Pierluigi, provincia di Arezzo. Salve Carlo e complimenti. Grazie. Io sono un milanista che non dorme in questo momento, no. E volevo parlare della sfida tra Milan e Juve in questo momento. Quella di, ma quale? Quella di Coppa Italia o quella grande? La sfida continuata durante tutta la stagione. Ah sì, certo. Diciamo che sono qui forse per fare un po' di memoria, anche se a breve termine, nel senso che non più tardi di 2 settimane fa lo stesso allenatore della Juve, Conte, diceva che la sua era una squadra che aveva finito la birra, che non aveva più fiato in corpo, che era stanca, eccetera. Ma non proprio queste cose, io queste cose non le ho mai sentite. Beh, Conte in diretta televisiva, insomma, parlava di una squadra stanca, che non girava più a 100 all'ora, come doveva fare. Era d'altra parte così, la Juventus deve giocare, deve stare molto bene fisicamente, come oggi sta, e deve giocare con grande intensità, sì. Se facciamo riferimento a una partita come quella con la Fiorentina, che veramente è stata poca cosa rispetto per dire alla partita che la Fiorentina ha fatto in casa con il Milan all'andata, dove ha fatto una barricata incredibile, la Fiorentina di ieri sera era veramente poca cosa, sì. Poi il risultato di 5-0 è frutto ovviamente di episodi. Di episodi, di tante altre cose, però attenzione perché la Juventus a me era piaciuta moltissimo anche la domenica prima a Genova, quindi ha giocato più o meno allo stesso modo, mi sembra che abbia ritrovato, è poco indicativa, lei ha ragione, la partita di ieri sera di Firenze, però mi sembra che la Juventus abbia ritrovato la gamba, che abbia ritrovato certi automatismi e certi scambi veloci che quando stai bene ti riescono, e poi voglio sottolineare l'importanza, di nuovo, l'importanza del giocatore dell'unico giocatore che può cambiare gli equilibri offensivi in grado di inventare, che è Vucinic, e che nelle ultime due gare ho visto come il miglior Vucinic della stagione. Ieri sera sarà anche un caso, però ritrovi Pepe, ritrovi anche il gol di Vidal, ritrovi il gol di Marchisio, e questi sono gli ingredienti che hanno portato la Juventus in testa alla classifica. Non so se è stato un così solo una notte fiorentina con gentile concessione da parte della dama viola. La Juventus mi sembra sinceramente in crescita. Oh, Ipse Dixit, divertente, ce l'ho qui sotto gli occhi, divertente rileggere le dichiarazioni del giorno prima. Sannino, allenatore del Siena, con il Novara non voglio vedere passi indietro, guai a indietreggiare di un centimetro, è una fase importante, il Siena si è fatto un mazzo così e nessuno ci ha mai regalato niente, morale della favola 0-2. Poi c'è chi dice anche che il Siena stesse già pensando a un risultato che sarebbe storico, cioè quello, la partita in programma mercoledì, cioè quello di una possibile finale di Coppa Italia, difendere il vantaggio conquistato all'andata sul campo del Napoli. Io credo che il Siena debba pensare a salvarsi, poi il resto mi sembrano bei sogni. Salvatore da Milano. Sì, buonasera, sono un interista depresso che però depresso. Bravissimo, facessero tutti così, ma io faccio incetta, io richiamo alle armi tutti gli interisti depressi e ci divertiamo, ecco, ci facciamo passare allora insieme la depressione. Ma io le spiego per quale motivo l'interista, perché poi esiste un doppio interista, l'interista di Milano e l'interista non di Milano. Le spiego la depressione autentica di mia e dei miei amici interisti di Milano. Senta, ma secondo lei, posso chiederle una cosa? Secondo lei io sono anti-interista senza motivo? No, perché? No, perché me lo scrivono con un SMS, non so. Faccio alla interista questa domanda. Almeno non me ne sono mai accorto. Ma nemmeno io. Vabbè. Sì, sono troppo impegnato a leccarmi le ferite, forse per occuparmi. Comunque, le spiego qual è la vera, autentica depressione, secondo me, dell'interista milanese. Al di là della stagione di quest'anno, fino all'anno scorso, comunque abbiamo vinto, no? Io avevo una sciarpetta zero titoli che finalmente ho dovuto ammainare, perché ho detto tirerò via soltanto quando arriveremo al nostro anno zero titoli. E il problema vero è che noi abbiamo vissuto un periodo strepitoso, con un godimento veramente assoluto con Mourinho, che rappresentava l'interista dentro, cioè il Bauscia. La capisco. Ecco, perfetto, non vado avanti di più. Cioè, quello che era lo diceva. Cioè, noi vinceremo e vinceremo. Cioè, è quella roba lì. A noi non basta vincere e fare. Modi di vincere anche l'impossibilità di essere normale come era di Mourinho. Io dico che molte squadre, Salvatore, lei lo sa benissimo, non solo l'Inter, ma tutte le più grandi hanno vissuto dei cicli straordinari anche senza gli estremismi o gli interismi. E poi hanno vissuto dei periodi di fisiologico assestamento. È successo al Milan, è successo alla Juventus, è successo al Real Madrid, al Barcellona, eccetera, eccetera, eccetera. Solo che nel caso dell'Inter c'è l'incapacità di essere normali, di vivere normalmente anche questi passaggi fisiologici, mi pare. La nostra depressione non è la sconfitta di oggi, l'uscita col Marsiglia, che meno male che siamo usciti col Marsiglia, perché se avessimo preso un altro dei mostri in giro per l'Europa ce l'avevamo massacrato, abbiamo pianto per il resto della nostra vita. Perché poi i cugini e i gobbi, no? Normale, si danno e si prende. Normale, perfetto. Il problema è che sappiamo e abbiamo la percezione netta che anche se si tornerà un po' a vincere non godremo più come abbiamo goduto. Ma non chieda troppo, aspetta. La cosa drammatica è che non c'è invece nessuna credibilità in quello che ha voglia di fare il presidente Moratti adesso, perché secondo noi non c'ha più voglia di fare niente. A questo io non so rispondere, deve rispondere al diretto interessato e al momento non lo fa, quindi su questo mi avvalgo della facoltà di non rispondere perché non lo so. Grazie, è stato molto divertente. Io invece saluto e ringrazio Massimiliano Rosolino. Ciao Max. Ciao, buonasera. Buonasera, sto consolando interisti depressi. Che cosa ci vuoi fare? Vabbè, che vogliamo fare con i napoletani? So, dimmelo tu. No, ma guarda, onestamente, io di batoffe ne ho prese così tante nella mia vita che il napoletano di base si cerca di rifarsi subito. Per fortuna il Napoli, la nostra squadra del cuore, ha l'opportunità di cercare di levarsi qualche soddisfazione in campionato. Significa comunque ritornare difficilmente, però è una cosa possibile in Europa. Ma come no? Questo è quello che ci auguriamo tutti quanti. È stato troppo bello godere in questa stagione, ma in settimana sono tramontati due miti: il Napoli in Champions, per cui io ho fatto un tifo enorme, e Torpi in Australia. Certo, però sono due cose un po' diverse, sai perché? Perché quando si parla di Torpa si parla un po' del Napoli con Maradona. Ovviamente non si può pretendere di rivivere certi momenti senza avere la stessa squadra del prima. Sicuro. E invece il Napoli, ovvio che come è stata brava a superare appunto la partita in casa con la prima partita, adesso poi ovvio che quando vai a giocare a casa dei nemici, questi non sono gli ultimi arrivati. Molti hanno parlato di esperienza, di paura di cambiare, sai, cambiare marcia a metà partita. Sono tutti commenti che lasciano, non dico sempre che trovano, però è ovvio che Napoli punta su, non lo so, Cavani, Lavezzi, poi invece un po' in questa partita ha puntato su altri ragazzi. Sì, ha fatto un gioco di squadra eccezionale fino agli ultimi minuti. È ovvio che se avessero vinto sarebbero stati degli eroi e saremmo qui a commentare la possibilità di vincere la Champions. Adesso che non è dai, perché purtroppo la differenza tra il bicchiere pieno e il bicchiere vuoto è così sottile. Magari, capito, una cosa che non invito ai calciatori, soprattutto agli allenatori, che magari non hanno vinto, non hanno passato il turno, boom, buttano fuori l'allenatore. Invece, certo, se è passato il turno, le mezze misure non esistono. Poi a De Laurenti spiacciono poco. Mi dici cosa hai fatto quando ha beccato il quarto gol in Napoli? No, ma guarda, io sono tranquillo, mio padre non parla anche due giorni. Mio padre ha avuto il piacere di emozionarsi. Appunto una vittoria in casa al San Paolo, aveva le lacrime che scendevano di gioia, nonostante non sia uno, non dice una parolaccia, non va allo stadio, cioè lui si guarda la sua partita in televisione, si tiene guai chi lo disturba, però si era emozionato perché un tifoso che il Napoli sia in Serie C o addirittura capito, riesca a vincere la Champions stessa, non... E questo è il tifoso di cui il napoletano ha bisogno, non quello che magari è pronto a prendere in braccio i giocatori all'aeroporto e portarli allo stadio, o piuttosto il tifoso che è pronto a insultarlo perché non ha raggiunto un traguardo. Non si fa così, insomma. Ma è chiaro, ci vuole equilibrio, ci vuole misura. È comunque un gioco meraviglioso del calcio che negli ultimi anni è stato in ascesa, adesso ci auguriamo tutti che possa rimanere tale. Senti Max, tu invece a Londra vuoi andare non da turista, No, assolutamente no, perché poi onestamente non mi piace neanche come si mangia da quelle parti. No, se ci andassi da turista diventerei 200 kg, come sono così tanto per dimagrire che arrivare in quel bel posto, in Big Bang, per mangiare French fries, fish and chips, non mi sembra il caso. Inseguo questo mio sogno, che è quello di andare quindi alle Olimpiadi. Stiamo restando che voglio dire, è una cosa che non è che posso nuotare da protagonista, però fa parte di una 4x2, in questo caso della staffetta di una nazionale italiana che va lì per fare la sua bella figura, una cosa che mi carica emotivamente. Ma poi ovvio che i problemi sono ben altri. Per il momento non mi è andata bene, e adesso abbiamo gli esami di riparazione tra due mesi e sono sicuro di avere tutte le carte in regola per potermi rifare. Bocca al lupo, Max. Crepi, grazie mille. Un abbraccione, grazie. Ciao. Sentiamo, vedo Ranieri in conferenza stampa. È stato leale e sincero nel dirmi questo lavoro oggi non riesco a fartelo. Lo volevi mettere al posto, come hai messo Castagnoso? Come ho messo Castagnoso? Tentare il tutto per tutto, o la va o la spacca, con un uomo in più che mi poteva saltare l'uomo e mettere una palla dentro, un tiro dentro, quello che poi ho chiesto a Castagnoso. Che siamo di fronte a un quindi Ranieri spiega l'esclusione, insomma, il gran rifiuto, il mancato ingresso di Forlan. Prima glissato, stavamo parlando di questioni tattiche, le questioni tattiche sono queste, cioè Forlan ha detto no, gli ultimi 10 minuti a fare quelle cose è meglio che vai a giocare a Castagnos. Mi è parso di capire che il senso è quello. Pier Francesco, Roma, buonasera. Buonasera, sono un interista non milanese. Oggi stiamo valutando tutti, c'è l'interista milanese di Milano e questo è quello dell'area metropolitana, e poi c'è anche ovviamente, come Pier Francesco, l'interista non milanese ma romano. Sì, io volevo dire due battute su Ranieri, no? Ma intanto Ranieri so che è stato un allenatore di grandi squadre, ma in realtà mi pare che abbia vinto poco rispetto a ciò che ha allenato, a ciò che ha fatto. Evidentemente la parte tecnica è valida, ma manca la seconda parte importante per un allenatore, ritengo essere quella motivazionale. Evidentemente non ha la capacità di motivare i giocatori, non riesce a dare con la squadra quel rapporto vincente e quella forza psicologica di cui spesso i giocatori giovani hanno bisogno. Sì, quelli giovani, invece quelli vecchi hanno bisogno di altre cose, all'Inter sono più i vecchi che i giovani. No, ma guardi, insomma, ma quando mai Ranieri ha allenato una squadra da scudetto? Cioè, quando lei dice ha vinto poco, è vero, ma quando gli hanno dato in mano una squadra per vincere lo scudetto? Questo non è accaduto mai, è un allenatore che ha fatto molto bene in varie piazze, che ha sfiorato il miracolo a Roma, a un passo dallo scudetto con una squadra che non era la più forte. Insomma, io credo che Ranieri sia un bravo allenatore, un uomo saggio, un uomo intelligente, e credo che stia facendo quello che può con una squadra, lo ripeto, che ha che è a fine corsa, una squadra che è a fine corsa. L'obiettivo, ripeto, deve essere quello di, e Ranieri può essere un uomo giusto in questo, di chiudere in maniera dignitosa e non eccessivamente sbarcata questa stagione, cosa che temo avverrebbe in caso di sostituzione di, dell'allenatore. Lorenzo, buonasera da Firenze. Io sono un moderato ma triste e sconsolato. Ci credo, prendere 5 pappine dalla Juventus penso sia la cosa peggiore per un fiorentino. Intanto vabbè, vorrei diciamo goliardicamente invitare a non festeggiare troppo i tifosi della Juventus, perché ieri sera purtroppo bisogna dire c'era una sola squadra in campo, era la Juventus, la Fiorentina era ancora in ritiro con le pantofole. Ero allo stadio, è stato purtroppo una grande delusione, una cosa veramente che in tanti anni non avevo mai vissuto. Io mi ricordo quando l'Artemio Franchi risuonava l'inno della Champions League, e quei tempi sono purtroppo assai... lo so, mi sembra che questa squadra sia stata costruita da Corvino con un po' troppa presunzione. Mi sembra una squadra un po' vuota, un po' senz'anima, soprattutto quando manca Jovetic, ma non puoi neanche affidarti a un solo giocatore, tra l'altro reduce da un così grave infortunio. Mi sembra una squadra troppo leggera, troppo senz'anima. Beh sì, io ringrazio comunque Della Valle, perché nel corso degli anni, ringrazio Corvino, ringrazio Prandelli, perché ci hanno dato delle grandi soddisfazioni. A Firenze non siamo abituati, calcisticamente parlando, ad avere grandi soddisfazioni, però io penso che sia il momento di voltare pagina e dobbiamo ricominciare da capo, cioè tutti a casa. Ma tutti chi? Tutti, non lo so, valutiamo, forse anche la dirigenza, anche il direttore tecnico, non lo so, sicuramente la squadra non gira e credo che non abbia più niente da dare. No, ma intanto bisogna vedere quale campionato farà la Fiorentina l'anno prossimo, e poi potrebbe essere anche un discorso sensato questo, perché ripeto, questa squadra non è né una squadra di giovani in rampa di lancio, a parte Jovetic, non è una squadra abituata a lottare, è una squadra che Degli Rossi l'aveva detto per tempo, si sarà da soffrire fino all'ultimo istante, perché Degli Rossi è un grande allenatore, aveva capito subito il guaio in cui si andava a ficcare. Ci fermiamo un attimo, 800 24 00 24, per arrivare qui e far sentire la vostra voce. Ancora una mezz'oretta insieme, se vi pare. 800 24 00 24, per far sentire la vostra voce, come quella di Massimo da Taranto. Buonasera. Buonasera, dica. Salve, riflettevo sul fatto che probabilmente gli juventini non telefonano per scaramanzia. La cosa che sto notando, leggendo sulla stampa, è che forse c'è la sensazione che ormai da parte degli addetti ai lavori che tutto sia stato già scritto, cioè che il campionato lo debba vincere il Milan. Perché? Io non sono d'accordo, per esempio. Secondo me è ancora apertissimo, no, il Milan ha un vantaggio importante, però la Juventus io credo che starà lì fino alla fine pronta a sfruttare gli eventuali rallentamenti del Milan dovuti a divagazioni europee. Non credo sia finita assolutamente 10 giornate dalla fine. Perché dice questo? Non so, ho notato un certo appiattimento, soprattutto vedendo alcune trasmissioni sportive o leggendo alcune testate giornalistiche, che dava questa sensazione, sì, di una squadra che sicuramente è tornata in salute, che è tornata a giocare bene, che ha recuperato i suoi elementi migliori, ma che comunque in ogni caso non è in grado di infastidire più di tanto la cavalcata del Milan. Ma io trovo che continuo a pensare quello che ho sempre pensato, cioè che il Milan sia più forte della Juventus perché ha più qualità ed è più profondo nel complesso. Non credo che sia inattaccabile, credo che la Juventus stia facendo una stagione straordinaria, ha pagato ma com'è fatale, com'è fisiologico, un appannamento lungo un mese in cui ci sono stati 4 pareggi che hanno scavato questo solco, proprio mentre il Milan ha ritrovato la condizione, ma soprattutto, e lì sta la grande differenza, anche quando la condizione non c'era riusciva a vincere certe partite semplicemente con un colpo di un fuoriclasse che normalmente è Zlatan Ibrahimovic. E attenzione, perché io non, per rispondere anche a un sms, non sminuisco il Milan parlando solo di Ibra. Dico che Ibrahimovic è l'uomo che fa la differenza nella corsa tra il Milan e la Juventus. dico questo e credo di non sbagliarmi, perché alla Juventus manca questo tipo, l'unica cosa che manca alla Juventus è questo tipo di giocatore, cioè il giocatore che ti trasforma lo 0-0, l'1-1, la partita col Bologna e quella col Genoa e quella con il Catania, eccetera eccetera, da un pareggio a una vittoria, dico questo. Angelo, a proposito di Catania, buonasera. Buonasera. Ma lei è quello che mi ha scritto l'SMS prima? Sì, esattamente. Ah, fantastico. Allora è stato Ligio al dovere, ha chiamato, come le avevo suggerito. Dica. Allora, io intanto volevo festeggiare i 40 punti, che poi sono 41 del Catania, così abbiamo la salvezza al sicuro intanto. Sì, anche se Montella ha detto adesso, però andateci piano, non è che vi ingozzate di cannoli e andate a far baldoria tutte le sere, perché ci piacerebbe continuare a correre. No, infatti io parlo di salvezza. Poi vorrei sottolineare che questo è il campionato della discontinuità. Cioè, se guardiamo il campionato scorso, alla stessa giornata, la sesta in classifica ha 7 punti in più, se non vado errato, e la prima 4-5 punti in più. Perciò si verificano queste situazioni perché c'è la discontinuità delle grandi squadre, purtroppo, anche al centro classifica. La Lazio, che era terza, ha perso 2 partite di fila con Bologna e Catania. Sì. È questa la realtà del nostro campionato purtroppo oggi, che non si riesce a avere una continuità e non vengono fuori le squadre che, come negli anni passati, erano quelle che dominavano le prime 5-6 posizioni. Beh, ma io lo trovo anche divertente, viva la discontinuità, sì. perché possono infilarsi squadre come il Catania, perché c'è molta più incertezza che poi al sale dello sport. Poi, se vuole, stiamo a fare dei discorsi di Nana Caprina, il livello è alto, il livello è basso, secondo me. Il livello di un campionato è dato dal coefficiente di incertezza e di divertimento che si prova. A me piace questo campionato italiano che è così incerto, in cui l'Inter fa fatica, in cui il Catania ha gli stessi punti dell'Inter, in cui la Lazio vince il derby, vuole prendere il Milan e poi perde in casa con il Bologna e perde a Catania. A me tutto questo diverte, cioè, altrimenti sarebbe già scritto, compreremmo il giornale il lunedì giusto per aggiornare i tabellini o fare del fantacalcio, insomma. Quindi viva la discontinuità, se così deve essere. Filippo Maria Ricci, corrispondente della Gazzetta dello Sport da Madrid, beato lui. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Di che segno sei? Acquario. Allora, voto 7,5. Vi evidenziate per abilità e fiuto, raccogliendo consensi a tutto campo. Euforie sudombelicali, poi. Vi pervadono e voi vi diverte mucho. Questo è l'oroscopo scritto, fantastico, lo leggo tutti i giorni, l'oroscopo del tuo giornale, Grandissimo, non l'avevo letto. Attenzione, la giornata prende un'altra piega. Attenzione alle euforie sudombelicali. Sì, considerando che vado al Bernabeu, le euforie sudombelicali non lo so, però insomma. Senti, Filippo, ti faccio sentire che cosa ha detto il grande capo del Milan sul sorteggio. Senti. A noi van bene le squadre importanti, le squadre famose, le squadre forti, perché ci esaltano. Quindi il Milan, che è la squadra, ricordo sempre, il club più titolato al mondo, nello scontro con il Real e con il Barcellona, credo che possa fare molto bene. Speriamo solo di arrivare con la disponibilità dei nostri numeri uno. Capito? Il club più titolato al mondo, lo dice sempre. Esatto, che non è anche, peso, quando, però, anche quando dorme. No, che però poi non è vero, mi sembra, non so che ci sia, cos'è, il Boca Juniors, chi è che c'ha più titoli. Ma sì, poi lì ci sono dispute su, esatto, su certe coppette, coppettine, però esatto. Comunque mi sembra che non sia vero. Comunque, detto questo, io sono con lui, secondo me c'ha ragione, però questo discorso avrebbe avuto più valore in semifinale o in finale. Nei quarti, secondo me, il Milan faticherà molto, però io gli lascio delle chance al Milan, anche se oggi ho cominciato il mio pezzo dicendo brutte notizie per il Milan, il Barcellona in effetti è in una forma strepitosa, però io del Milan mi fido abbastanza, insomma, non, qualcosa c'ha, dipende, c'ha ragione anche quando dice dei suoi numeri uno. Per quale ragione? Vabbè, perché è una squadra molto strana che dipende tantissimo da Ibrahimovic. Se Zlatan decide che è il momento, una volta nella vita, del filosofo, esatto, una volta nella vita, dice no, qua sta filosofia mi ha stufato, sì. Viene, è al Camp Nou, fa la partita come potrebbe fare, che è nelle sue corde, E dopo tutto da vedere, insomma, ecco. E se bisogna vedere ovviamente come ci arriva il Milan al Camp Nou, perché la prima no, ma poi certo però... il Milan ha da spendersi comunque tutto il suo carisma internazionale, perché non esatto, è una squadra banale, è una squadra qualunque, eh? No, appunto, c'è questo carisma. Ma ci mancherebbe. Se non è allora... club più titolato al mondo, comunque è una squadra che a livello europeo ha il suo carisma da buttare in campo contro avversari. No, la domanda precisa dice: chi vuoi evitare nella Champions? Guardiola ha risposto il Milan. Non è che ha dato una risposta generica. Avrà un valore questa risposta. Proprio detto il Milan, poi ha spiegato più o meno, ma insomma, in generale a me quello che interessa è il nome che esce. Non ha detto Real Madrid, non ha detto il Chelsea piuttosto che il Napoli, che era ancora in corso, via dicendo. Insomma, ha detto il Milan. E questo vuol dire per me. E poi l'ha ripetuto anche l'altro giorno, no? Dopo il sorteggio. È una squadra che può fare qualcosa, insomma, che può dar fastidio al Barcellona. Poi è chiaro, cioè il Barcellona è favorito perché è una squadra stellare e poi ha il miglior giocatore del mondo. Perché se noi parliamo di Ibrahimovic, che deve essere ispirato, se poco l'ispirato è Messi, non c'è più per nessuno. Un gol stagionale, come che dobbiamo dire? No, niente. No, piuttosto c'è da domandarsi se ha ragione Cappello che la fa facile. Io so come battere il Barcellona, grazie, è accanto al tuo pezzo oggi sulla Gazzetta. Servono pressing e ripartenze, bravo. Ci arrivavo anch'io. Più che altro servirebbe provare a scendere in campo in 13 e non farsi beccare. Lo so, sì, no, molto dipende da Messi, sai. Il problema è che stanno bene, ieri hanno fatto un primo tempo spettacolare a Siviglia, ho detto d'accordo che il Siviglia può anche non essere l'ostacolo più complicato, però intanto a parte ci avevano pareggiato all'andata, ma ieri il primo tempo è stato spettacolare, veramente, se giocano così per il Milan è difficile, perché il problema è che molto probabilmente segnano a San Siro. Se giocano così. Certo. Però certo. Ricordiamoci pure che è lo stadio dove, diciamo, è l'unico stadio dove Guardiola ha perso la Champions, mettiamola così, no? Con l'Inter. Sì, dopo un viaggio in pullman, un arbitraggio che Mourinho non ha menzionato nella sua lista nera degli arbitri, no? Quella famosa, stranamente quell'arbitro non è stato menzionato, no, forse se lo sarà dimenticato. Chissà, ma certo che se l'ha dimenticato. No, per riannodare il discorso sul cool di Mou, che va a prendersi la Poel, eh? Che ti ridi? Più di una risata, che dobbiamo dire? Cioè, sì, però dopo c'è il Bayern, molto probabilmente, e il Bayern non solo ha la finale in casa, ma giocherà con il Real Madrid a cavallo del classico, che forse sarà un classico descaffeinato, come dicono qui, perché non avrà più nessun valore, probabilmente se il Madrid mantiene questo vantaggio ovviamente perde molti dei suoi significati, però resta un classico, che non è che gli porta via energie mentali e così, e quindi non sarà semplicissimo per il mentre il Barcellona non avrà questo problema. Cosa vuoi che ti porti alla finale il Milan, no? Cosa vuoi? Andare in finale in carrozza anche? No, certo. Vabbè, c'è già prendere ai quarti di finale di Champions League la Poel, penso che sia il massimo della vita calcistica, voglio dire, non immagino niente di meglio. Certo. Hanno anche avuto il CSKA negli ottavi, che già non era proprio uno scoglio formidabile. Esatto. Girone abbastanza agevole. Infatti gli dice bene, sembra essere il suo anno. La situazione si è messa bene perché possa teoricamente addirittura fare questo doblete. Però vediamo, io dico un eventuale semifinale col Bayern è complicata, è tosta, perché il Bayern ha una difesa abbastanza abbordabile, però poi davanti, ma anche lì sai, poi dipende, a quel punto vai a giocare tre partite così in una settimana, in otto giorni, basta un non nulla, uno stiramento ridicolo, perdi un giocatore per anche una partita, due, insomma un cartellino, un'espulsione, è complicato, però certo, più dell'Apoel non potevano chiedere, insomma. E no, euforie sudomericali come per te. Sì, me l'ho già dimenticato, adesso devo sperimentare, vediamo al Bernabeu, non so bene come pensarle, però chiedi a Capitani, non so. Forse è la conferenza stampa di Mu, magari, ecco, può essere, ci regala qualcosa. Ciao Filippo, grazie. A voi un abbraccio, ciao. Grazie Filippo Maria Ricci. Domenico da Roma, buonasera. Buonasera, certo, parlare adesso dopo questa chiacchierata della Lazio, di Catania-Lazio, è un po' riduttivo. Però, perché? Io sono un tifoso della Lazio, quindi sono un po' deluso da questa società. Perché sono deluso? Perché il presidente Lotito ci aveva promesso altre cose. Il presidente Lotito aveva fatto un patto con i tifosi della Lazio che avrebbe provveduto subito nel mese di gennaio, visto la buona andata della Lazio, cioè la buona, diciamo, riuscita. Cioè, mi sembra che il punto cruciale sia quello che ha fatto fare tutto quel teatrino con Reia, eccetera, eccetera. Adesso lei sicuramente è una persona del ramo, quindi se ne intende bene. Secondo lei una società che mira andare in Champions League si mette a fare questi teatrini e poi promette a questa tifoseria, che è una tifoseria storica, non teniamo a badare che noi siamo nati nel 1900, si mette a fare questi teatrini così poco rassicuranti circa un'eventuale corsa in Champions League, cioè mi sembra. Però, e poi vai a Catania e prendi la Però mi perdoni, se non ricordo male siete ancora terzi in classifica, quindi io credo che varrebbe la pena in un campionato come questo, anche se a gennaio non è arrivato quanto promesso, mi sembra che la squadra stia facendo strabene, avete vinto il derby, adesso poi c'è stato il contraccolpo da derby com'è abbastanza fatale, no? E lei lo sa meglio di me, però mi pare che darla su prima di vedere come va a finire sia sbagliato, perché mancano 10 giornate potremmo anche finire decimi oppure terzi ma da dove lo legge questo pessimismo, scusi? Ma Domenico, perché a Catania tu non devi perdere se vuoi andare in Champions League, tutto qui. Non contesto Reia perché è una persona di 67 anni e ha una certa esperienza in merito, però i giocatori validi, dei cavalli da monta ce l'ha in panchina, sono Kozak, sono Rocchi, sono persone di esperienza, soprattutto Rocchi, quanto più che Kozak, ma mettili dentro, tu devi fare una partita a vincere. Sì. Sei andato a Catania, ti sei chiuso e ti hanno bucato. Non puoi andare in Champions League. Ma io continuo a trovare questo pessimismo eccessivo, perché a Catania hanno perso in molti, perché Catania è forse la squadra rivelazione del campionato. Piuttosto non puoi perdere in casa con il Bologna dopo aver vinto il derby, ma la sconfitta di Catania può essere anche corretta la sua lettura. Però ci può anche starci per una squadra che vuole andare in Champions League. Non condivido questo eccessivo pessimismo, io comunque, visto appunto come sta andando il campionato. E stasera c'è un'altra partita chiave con Udinese-Napoli e io credo che sarà una corsa all'ultimo respiro e fino alla fine, alla quale resterà iscritta anche la Lazio. Carlo Pistoia, buonasera. Sì, buonasera. Senta, io mi riferivo al discorso che facevate prima sulla Fiorentina e non so se sono cose già state dette. Comunque volevo dire questo, che è una situazione molto preoccupante secondo me quella della Fiorentina. Rischia addirittura di essere impelagata per la retrocessione. Lo è. Intanto una squadra che ha una punta sola di ruolo, è una cosa assurda che non si è mai vista da tanti anni, secondo me, una punta valida a livelli di Serie A. Poi consideriamo anche i giocatori che non hanno stimoli, non hanno dimostrato neanche di fronte a una partita come la Juventus, contro la Juventus, di fronte a un pubblico meraviglioso, di riuscire a essere un pochino più concentrati e meno a pensare a polemiche, nervosismi, eccetera. Cioè una squadra non matura in questo senso qui. L'unico che lo può salvare è Jovetic, il talento di Jovetic. Ci mancherebbe altro, però se sta in campo e non seduto in tribuna come era ieri sera, insomma, è evidente che in una squadra in così gravi difficoltà come la Fiorentina un giocatore come Jovetic fa tutta la differenza del mondo. Ripeto, la Fiorentina lotterà fino alla fine per salvarsi e le va bene, perché oggi ad esempio il Lecce, che era che era in, in piena corsa, ha mezzo buttato via la partita con il Palermo, secondo me. Aggiorniamo la seduta, ci sentiamo alle 8:30 per parlare di basket. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Paolo Corleone in regia. Più tardi.